ieri nel dare il benvenuto al prefetto Attilio Visconti. Come gruppo consiliare abbiamo pensato di mandare una nota nella quale chiediamo al prefetto, al nuovo prefetto, essendo come tutti sanno il rappresentante del governo nel territorio, degli interventi su questo tema, sul caro vita e il caro bollette, nella misura in cui il prefetto, essendo un organo appunto che è in diretto contatto con il governo, può fare pressione per quanto ci riguarda attraverso un'azione congiunta e coordinata con gli enti locali, in particolare il comune di Bologna. Noi crediamo che debba essere questo il ruolo del prefetto in questa fase, proprio perché l'emergenza è sotto gli occhi di tutti, il tema è molto caldo all'ordine del giorno del dibattito nazionale, tuttavia in questo momento ancora il governo non ha trovato la quadra ed è molto in ritardo su questo tema, mentre altri governi come quello spagnolo ad esempio sono già intervenuti sul tema della tassazione sugli extra profitti, che sembra che il governo italiano vuole discutere, quindi prendendo per quanto ci riguarda un esempio positivo, cioè quello spagnolo. Tuttavia dobbiamo rilevare anche che il governo Draghi, al contrario del governo Conte, che per quanto ci riguarda comunque ha fatto il minimo, ma il minimo l'ha fatto, non ha ancora istituito i ristori. Quindi quando noi parliamo di caro vita, chiaramente è legato al caro bollette, quindi bisogna intervenire su quel tema lì, ma si interviene anche in termini indiretti, cioè attraverso dei ristori, perché come stiamo vedendo anche in questi giorni in città, la sera il livello di ristorazione praticamente è a zero, cioè i posti sono semivuoti, anche perché le persone giustamente si vogliono autotutelare, cioè non c'è un lockdown, però in qualche modo tutte e tutti noi ci rendiamo conto che in questo momento è importante non contagiarsi, però servono dei sostegni, ecco. Ecco, quindi insomma, oltre al problema della, come dire, dell'epidemia, della pandemia di Covid, diciamo, se la uniamo al problema del caro bollette, potrebbe avere ripercussioni anche sull'occupazione e sulla capacità anche delle famiglie, delle persone, poi di pagare le bollette. Ma assolutamente, noi sappiamo che altro che rincari del 40%, stanno arrivando bollette che sono più del doppio rispetto alle precedenti, ma anche se pensiamo al costo del metano per le automobili, che è più che raddoppiato. Quindi poi delle volte le percentuali che noi vediamo non corrispondono poi a quanto effettivamente una persona spende in più rispetto all'anno scorso. È chiaro, tuttavia, come abbiamo anche discusso in commissione consiliare proprio l'altro giorno, che come ha detto l'assessora Marisa Boni, che è delegata ai rapporti sui fondi europei, c'è un tema anche energetico, cioè in prospettiva bisogna intervenire proprio sulle fonti di energia, e quindi puntare ad una città carbon neutral è un obiettivo politico di lungo termine, questo non dobbiamo mai perderlo di vista. Chiaramente d'altra parte noi non possiamo dare una risposta di questo tipo, perché in questo momento non è sufficiente dire questo, anche se è un obiettivo corretto a perseguire e c'è il massimo impegno anche da parte nostra, perché la città carbon neutral non si fa dall'oggi al domani, si fa entro il 2030, speriamo, però nel frattempo abbiamo bisogno che il governo dia risposte, e in questo momento non le sta dando. Speriamo che nei prossimi giorni il decreto si faccia, però ripeto, siamo assolutamente in ritardo e già le bollette stanno arrivando, perché già nel mese di gennaio davvero alcune attività rischiano di chiudere. Dobbiamo renderci conto di questo livello di gravità della situazione. Servono interventi sia nell'emergenza attuale che poi in prospettiva. Tu prima hai citato la Spagna, potrebbe essere quella una soluzione, cioè tassare gli extra profitti? È una delle soluzioni. L'altra soluzione che hanno adottato in Spagna, ad esempio, è l'abbattimento dell'IVA, cioè passarlo dal 21 al 10, per quanto mi riguarda dovrebbe essere azzerata, perché anche questo allo studio delle misure del governo. Però ecco, partiamo da questo esempio, certamente, e quindi tassare gli extra profitti, abbattere l'IVA e poi operare dei ristori, mettere in campo dei ristori, come è stato fatto dal governo Conte, ma speriamo soprattutto molto meglio rispetto al governo Conte. Però dall'uno al niente, sempre stiamo parlando di questo, cioè il fatto che in questo momento il governo Draghi non ha istituito ancora questo tipo di misure, che sono invece assolutamente necessarie.